piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Questa mattina vi voglio indurre a uno sforzo interiore particolare. La maggior parte delle persone che mi ascoltano o sta ancora a casa o comunque mi ascolta attraverso le consuetudini precedenti al Covid-19, ma comunque ha alle spalle 2 mesi tempo chiuso dentro casa propria, di tempo diverso dal consueto. Insomma, ha vissuto nel bene e nel male qualcosa di unico nel corso della sua esistenza. Io ricordo che la mia generazione, figlia degli anni 50, era abituata a avere come dose quotidiana di memento del passato i racconti dei nonni, degli zii, dei genitori che avevano fatto la guerra. E naturalmente questo fa sì che noi siamo cresciuti con storie di bombardamenti, di rifugi, di tessere annonarie, di borsa nera, di prigionia, di segregazione, di morti, di uccisioni. Insomma, il nostro bagaglio di racconti della guerra ha fatto sì che vivessimo poi abbastanza funestati nell'interiorità per i successivi 70 anni, fino a che abbiamo avuto anche noi qualcosa da raccontare di uscita dalla serenità collettiva, che bene o male è un indice comunemente abbastanza intangibile, a parte i picchi personali, individuali, ognuno vive le sue tragedie personali, ma a livello collettivo nel nostro paese grandi tragedie forti, sentite alla stessa maniera da tutti, non ci sono state. Sì, ci sono stati gli anni di piombo, ma erano vissuti soprattutto nelle città, soprattutto nelle famiglie toccate comunque dal fenomeno del terrorismo. Per gli altri poteva essere qualcosa di triste che si legge nei giornali. Beh, come racconterete voi i mesi del Covid-19? I mesi, finora sono mesi. Attraverso quali episodi darete ai vostri figli, ai vostri nipoti, testimonianza di questo periodo che avete passato secondo diverse gradualità, però in maniera diversa rispetto a quello che avete progettato per il resto della vostra vita, forti e consapevoli di quello che c'era già stato? Beh, io in questo momento, per le persone fortunate che mi vedono anche attraverso il sito di Radio 24 o attraverso YouTube, ho messo al posto della mia immagine che parla un'immagine e potrete guardarla tutti. È un dipinto, per farvi capire e portarvi nel clima che mi serve per il contributo alla trasmissione di oggi. Raffigura 3 persone nude, un uomo alle spalle abbastanza macilento, allucinato, una donna con lo sguardo molto triste, guarda in una direzione differente rispetto all'uomo. L'uomo guarda dritto davanti, come se ci fosse una telecamera, e guarda nell'obiettivo. E tiene la donna accoccolata tra le sue gambe, quasi in maniera protettiva. La donna è nella stessa posizione, con le gambe aperte, anche lei nuda, guarda sconsolata verso un altro orizzonte, tangenziale rispetto a quello dell'uomo che sta alle sue spalle, e tra le sue gambe aperte c'è un bambino che potrebbe avere 2-3 anni, e anche il bambino guarda in una terza direzione ancora rispetto alle altre 2 persone che si immaginano possano essere il padre e la madre. Questo quadro infatti è intitolato La famiglia. Rappresenta una famiglia, un padre, una madre e un bambino nudi che guardano in 3 direzioni diverse, come se fossero perduti. Attorno a loro il buio, il nero, non c'è nulla. Sono nudi, macilenti, desolati, non hanno un obiettivo comune e un orizzonte comune. Questo è un quadro di Egon Schiele, che è un artista che nella mia scarsissima e lacunosa esperienza, però sempre amato, lo conobbi i primi anni che venni a Roma, perché c'era una mostra a Roma di Egon Schiele. Si è prodotto fra l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi 20 anni del Novecento. Appartiene a quella corrente artistica detta della secessione viennese. Era un allievo di Gustav Klimt, che è un artista molto più conosciuto, e è noto nella sua vita per aver raffigurato sempre queste figure nude allucinate. È stato molto, ha prodotto moltissimo, in 10 anni ha fatto circa 300 quadri, 3.000 disegni. E sempre queste figure nude, molti autoritratti allucinati. Ha avuto una vita abbastanza difficile. Difficile e tormentato era l'anelito artistico che lo muoveva, ma anche la sua vita, un padre pazzo, una madre abbastanza ossessiva, è stato anche imprigionato perché aveva la consuetudine, come molti artisti, di innamorarsi delle sue modelle, e l'ultima modella, Edith, è proprio la donna che ha sposato, l'ultima fase della sua vita ha sposato questa donna Edith. Questa famiglia che lui raffigura in realtà non è mai esistita. Perché la moglie Edith, incinta di 6 mesi, è morta di spagnola, l'epidemia che attraversò il mondo nel 1918-19. Edith morì di spagnola, quindi quel bambino non è mai nato, ma Egon Schiele ha comunque dipinto questo suo ultimo dipinto, in cui rappresenta la sua famiglia che non ha mai avuto, in cui la moglie aveva partorito, il figlio era già cresciuto e lui finalmente aveva una famiglia, che probabilmente era stato una sorta di anelito impossibile nella sua vita, ma 3 giorni dopo aver dipinto questo quadro è morto anche lui di spagnola. Quindi questo è l'estremo e allucinato desiderio di un artista che ricorda un periodo della storia della nostra umanità che è completamente stato cancellato dall'espressione artistica, dalla letteratura. Si parla della guerra, si parla del fascismo, del dopoguerra, ma non si parla della spagnola, almeno alle nostre latitudini. Non se ne parla perché? Perché c'è una rimozione nella letteratura, nell'arte, nella narrazione del proprio tempo a parlare di questi episodi, di questi periodi. Beh, io volevo rimuovere questo precedente e vi chiedo oggi di raccontarmi, se possibile, quelli che sono stati per voi gli elementi salienti, gli episodi, qualcosa di simile al momento fatale, tragico, estremo di Egon Schiele, che ha dipinto la famiglia che non ha mai avuto, perché la moglie è morta incinta di spagnola e lui stesso dopo 3 giorni è morto di spagnola. Voi avrete probabilmente cose meno estreme, più serene, ma avrete pensato cosa raccontare di questi 2 mesi? Beh, oggi dovete fare esattamente questa operazione e raccontarmi in 30 secondi quello che racconterete fra 10, 20, 30 anni ai vostri figli, ai vostri nipoti di questo periodo. E adesso in questi giorni cercheremo di capire un pochino la situazione e come fare col parto imminente. New York non era una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto, perché quando inizi a vedere la gente che invece che andare a comprare carta igienica va a comprare armi e fanno le file fuori ai negozi, quando pensi comunque al livello di povertà che c'è nella città, purtroppo, quando inizi a pensare appunto al fatto che non è mai successo una cosa del genere e che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano, con gente in giro appunto magari che va fuori per la situazione, che ti spara a vista per magari prendersi su qualcosa, non so, non mi sentivo sicura. Abbiamo iniziato ad aver paura più che del virus, proprio della reazione della gente, di quello che poteva succedere attorno a noi, e non ci siamo sentiti sicuri con una bambina piccola e una in arrivo. Abbiamo deciso di venire dalla nostra praticamente seconda famiglia qua in America, quindi al di fuori delle grandi città, perché le grandi città non sono sicuro in questo momento in America. Questa è Clio. Clio è una famosa youtuber italiana, ha un suo canale Clio Makeup, viveva a New York, sembrava che per lei il mondo dovesse essere sempre quello che raccontava tutti i giorni, spiegando in maniera mirabile e molto seguita come truccarsi alle sue fan, però anche lei è stata colpita dall'episodio del Covid-19 mentre era a New York, era incinta, è scappata a New York con il marito perché aveva paura che gli ospedali erano pieni, erano i periodi in cui si diceva che gli americani si andavano a comprare delle armi, pensando a una sorta di ecatombe zombie. Lei si è spaventata, è scappata via, per paura di sommosse, per paura di quello che doveva accadere. Beh, lei racconterà al suo bambino che nascerà questa storia qua. La mamma e il papà sono scappati perché il mondo sembrava impazzito, era scoppiata un'epidemia, una pestilenza, gli ospedali erano pieni, la gente moriva e la gente andava ad armarsi perché per prepararsi a conquistarsi e accaparrarsi le poche risorse possibili. Poi questo, grazie a Dio, ha avuto una piega abbastanza diversa. Quindi siete pronti? 800240024, come sempre avete 30 secondi per il vostro racconto della cattività al tempo del Covid-19. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800 24 00 24. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Adesso non pensate che si debbano raccontare solo le cose tristemente estreme, l'essere lambiti in maniera atroce, profonda, dagli effetti del coronavirus. Pensate che verrà un giorno, verrà un momento in cui questa parola farà parte del passato. Ci auguriamo che avvenga prima possibile, al momento fa parte dell'attualità. Ce ne rendiamo conto noi, raccontatori di attualità, che non possiamo fare a meno che toccare questo argomento, che parlare di questo argomento. Per quanto ci sforziamo, per quanto ogni giorno pensiamo oggi cambiamo argomento, parliamo di qualcos'altro, è impossibile. Perché? Perché l'attenzione di chi ci ascolta, lo sappiamo, che in questo momento è fissa su quello che sta accadendo. Beh, provate a parcellizzare il vostro ricordo individuale, personale, quello che avete fatto, quello che avete sentito, le vostre giornate che sembravano tutte uguali, ma tutte uguali non erano, e provate in 30 secondi a raccontarlo. Noi abbiamo la presunzione di mettere assieme un grande archivio di memoria digitale, rimarrà nei server di Radio 24, e non è detto che un domani la narrazione di questi anni, che saranno come di tradizione tenuti lontano dall'arte, dai romanzieri, dai narratori, da coloro che danno un'interpretazione alta e personale del tempo che vivono, beh, almeno gli ascoltatori di Radio 24 potranno dire la loro. Alberta da Ferrara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. È pronta? Respiri bene, lei inizia questo importante momento di raccogliere in un archivio digitale la memoria delle esperienze personali al tempo del coronavirus. Vada. Allora, se avrò dei nipoti, dirò che al tempo del coronavirus, in questi 2 mesi di prigionia, io sono stata molto bene in realtà. Io insegno e continuo a insegnare da remoto, però mi sono riappropriata dei miei oggetti, dei miei familiari, della mia casa, dei miei spazi. Sono stata molto felice, anche nel dramma. Devo aggiungere altro? Ricordo che la modalità è che voi avete il tempo fino a che suona la sveglia dei 30 secondi. Potete dire quello che volete o anche non dire nulla. Io non vi interromperò mai. Allora, Alberta ha fatto un racconto vago, però adesso le entro un pochino più io, perché se no, suo nipote cosa dice? La nonna è stata bene, era contenta, era felice, se ne stava a casa col nonno, si cuocevano le frittelle e si facevano la pizza, è stato un momento bellissimo. Probabilmente c'è anche qualcos'altro, non c'è un momento particolare per capire, degno di essere raccontato, uno stato d'animo condiviso, uno stato d'animo di particolare angoscia, di tensione, c'è un momento diverso da tutti i momenti che ha vissuto da quando è nata fino a 2 mesi fa? Beh sì, certamente è stato un momento… E quello deve raccontare, però non è che è una favola, cioè mio padre e mia madre mi hanno tolto il fascino della fanciullezza raccontandomi delle bombe, dei bambini che morivano di fame, dovevo mangiare la fettina perché loro hanno fatto la fame nera, i bambini a scuola quando ero piccolo c'erano i cartelloni con i bambini che gli erano schizzate via le gambe, le braccia, gli occhi perché andavano a raccogliere le bombe e ci giocavano, cioè questa è stata l'onda lunga della guerra. Dovrebbe esserci qualcosa che, non dico arriva a questi livelli di truculenza, ma che più o meno racconta che è stato un momento difficile, non è stato un momento facile. Ci pensi bene, intanto sentiamo Francesca Carla, provincia di Monza Brianza. Pronta? Buongiorno, sì, sono qua. 30 secondi per lei, faccia quello che vuole, vada. 30 secondi non mi basteranno. Ho scritto una poesia il 13 settembre 2019, l'ho riletta quando è scoppiata sta cosa qua e ho provato un senso di inquietudine. Se vuole la faccio sentire, ma dura leggermente più di 30 secondi. E il finale vedremo se andrà tutto bene, se veramente così. Posso dirlo, questo è importante secondo me. È tutto vero, ho visto prati dall'erba alta e fiori profumati, ho visto alberi dalle folte chiome ondeggiare nel vento, ho visto bambini correre liberi e vocianti tra l'erba alta col cuore contento. Ma dove l'ha visti? In televisione tondo. Tutti questi? Dove l'ha visti? Com'è? Però? Dove l'ha visti Francesca Calla tutti questi bambini? Mamma mia, veramente, questi che correvano fra l'erba alta molti anni fa, perché adesso l'erba è piuttosto rasata, non lasciano crescere i fiorellini, la tagliano, livellano tutto. Io questo l'ho vista invece. Vabbè, allora, sono posso contento continuare? Che vuol dire che lei questi due mesi, diciamo, in cattività l'ha passati fumandosi la bella roba e bevendosi delle buone cose, quindi mi fa piacere che è stato un momento felice, però cerco qualcos'altro e qualcos'altro spero di avere tra un istante, dopo la pausa. Melog. Tu vieni a Milano, e dove devi arrivare? Siete un po' spaventati? Il problema è che hai la paura di non sapere più tornare. Non ci sono più posti. Posso solo, lui non partirà. Posso partire con il biglietto? Lei sta scappando invece, appena sentita la notizia. Tu stasera il biglietto. Questo stasera e con questo clima di angoscia. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. 800240024, 0024, stiamo cercando di mettere insieme una narrazione epica fatta di tanti frammenti individuali per cercare di consegnare alla storia qualcosa che dia il senso di quello che è accaduto nelle nostre vite in questi due mesi. Alessandro, provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno a lei. È pronto? Sì, la sento. È pronto? Ripete. Ah, intanto do la notizia, mi hanno scritto, Clio ha partorito, si era trasferita in queste ultime settimane in Virginia dall'amica Giuliana, altra famosa youtuber, e il 22 aprile ha partorito in Virginia. Quindi il racconto che era iniziato, come avete visto, da una sua testimonianza individuale, era fuggita da New York, poi si è concluso felicemente. Allora è pronto Alessandro? Vada. Pronto. Allora, noi, io e la mia compagna viaggiamo moltissimo e per lavoro sono costretto a girare il mondo e buona parte dell'anno la passiamo in California. Ci trovavamo in Italia, eravamo appena rientrati dagli Stati Uniti quando è scoppiato tutta questa confusione mediatica e il problema enorme è stato decidere se restare in Italia o andare negli Stati Uniti, dove sembrava che non ci fosse ancora il problema. E l'abbiamo vissuta in maniera molto pesante questa decisione. È un buon inizio di racconto, però ancora pregherei gli ascoltatori, che sono già pronti, sono già tantissimi, a dare il loro contributo. Entrate in più nell'esperienza individuale, pensate qualcosa che raccontate a un bambino per dargli il senso di quello che avete passato, quello che avete trascorso, un vostro stato d'animo, un vostro momento di particolare difficoltà. Già ci stiamo avvicinando. Paolo, dal Sano Lombardo, provincia di Bergamo. Pronto? Eccomi, buongiorno a tutti. Pronto, vada, 30 secondi. Ho passato il primo mese in questo lockdown a assistere i miei genitori che erano ammalati di Covid. Poi nel mese di aprile ho ricominciato la mia passione, la corsa, chiaramente sulle scale, in casa, nel garage. E insieme a un amico, sempre di Azzurro Lombardo, abbiamo casualmente inventato un evento che ha raccolto centinaia e centinaia di adepti in tutta Italia, virtuale ovviamente questo. Tutti ci hanno ringraziato veramente tanto e ci hanno lasciato delle emozioni che sarà quello che racconterò io di questo Covid. ci stiamo ancora avvicinando. Io sono molto sgradevole nel mio pretendere dagli ascoltatori qualcosa che è legato alla parte più intima della loro carne, però possiamo fare meglio. Vediamo se Roberto, provincia di Massa Carrara, ci riesce. Pronto Roberto? Sì, salve Nicoletti. Vai. Sì. Allora, sì, io volevo condividere questa esperienza. Io questo momento così di lockdown mi ha fatto capire che per anni avevo vissuto in quarantena a causa della malattia dei miei genitori e quindi, non so, algebricamente, meno per meno più, mi ha dato l'idea che forse posso riappropriarmi della mia vita. Ecco, è una cosa molto personale, quindi chissà che altre persone non hanno avuto la stessa sensazione. Questo volevo comunicare. Cioè, per lei sembra un paradosso, ma la sua è un'esperienza condivisa da moltissime persone. L'isolamento ci ha liberato da alcuni legami che sembravano indissolubili, tra cui quelli con i genitori, con le famiglie, con gli amori, con le amicizie, con i colleghi di lavoro. Per molti è stato un trauma, per molti è stata una liberazione. Finalmente si ha una scusa per scomparire a un mondo di relazioni che tolleriamo, ma dentro di noi sentiamo che ci avvelena. Qualcosa del genere? Esattamente, meno per meno più. Sì. Lei si è accorto che poteva staccarsi dal ricatto emotivo dei genitori con il fatto: adesso sto peggio di voi, lasciatemi in pace. È triste, brutto, sembra spietato. È molto triste, ma, sì. Ma è una realtà. Io mi auguro di non dar mai ai figli bisogno di fare questa scelta, ma di essere sempre silenzioso e poco invadente, perché un figlio va lasciato in pace a un certo punto. La nostra vita a un certo punto si stacca e si molla gli ormeggi dei figli, si lasciano andare a godersi la loro di vita o a viversi con le difficoltà della loro vita. Mantenere sempre vivo il ricatto della nostra esistenza che ha bisogno di supporto significa non volere la cosa migliore per i figli, e diciamo che il lockdown ci ha spiegato che molte volte si può fare a meno anche di tante persone delle quali sembra, sì, che non possiamo fare a meno di occuparci. Ma è perfetto, ma questo è un passo avanti, secondo me, è un'emancipazione importante. Molti si arrabbieranno: come il sacro vincolo, l'affetto, l'amore, senza cuore. Sì, a me il cuore serve per pompare il sangue nelle vene, non ha altro uso. Vittorio, provincia di Torino. Buongiorno, io volevo dare allora, la mia... Sei pronto? Sì, pronto? Sì, prontissimo. Vai, 30 secondi. Io volevo dare la mia esperienza. Sono Vittorio Garda e con la mia compagna Martina Ghirardo abbiamo un'azienda vitivinicola a Carema, facciamo vino a Carema, un posto sotto le montagne, l'ultimo baluardo della viticoltura piemontese prima della Valle d'Aosta. E beh, in un momento così di difficoltà stiamo per avere un figlio e noi abbiamo deciso di piantare vigne come se non ci fosse un domani. E questo per insegnare a nostro figlio che anche nei momenti di difficoltà bisogna dare tutto per il futuro. Penso che sia un bel insegnamento. Poi lui potrà decidere di tagliare le viti o di continuare a mandare avanti l'azienda, ma questa sarà una sua scelta. Mi sembra un'ottima scelta. Anche il vecchio Noè, quando era il momento che stava per schiattare, si mise a piantare una vite. Mi sembra, adesso ricordo a braccio, perché non è che ho molta frequentazione recente con i sacri testi. Il Padre Eterno gli disse: ah Noè, stasera mori, ciao, datti una regolata, è l'ultimo giorno. E Noè, sapendo che fare, se Noè, spero che sia Noè, scavò una bella fossa e ci piantò una vite. Il Padre Eterno dice: beh, vedi, hai fatto qualcosa che tu non ti saresti mai goduto, e quindi ti becchi altri 1000 anni di vita, 100 anni, non so, a quei tempi, come il Padre Eterno regalava la vita ai suoi prediletti. E quindi lei ha fatto qualcosa che è un bel investimento per il futuro, mi fa piacere. Roberto, provincia di Como. Pronto? Sei pronto? Sì, certo. Vai, 30 secondi, c'è tantissima gente in fila, vai. Benissimo, in tutta questa pandemia non mi sarei mai, ma dico mai, immaginato di dover puntare la sveglia alle 2, alle 3 del mattino per cercare un buco per fare la spesa online. Il sistema era tarato in modo da fare la spesa da qui ai prossimi 3-4 giorni, quindi bisognava beccare assolutamente l'orario libero, e quando riuscivi a beccare l'orario libero tante volte il server ti rimandava all'inizio perché ti dava errore. È stato veramente un incubo, mi sono accorto. che è stato veramente un incubo. Perfetto, questo è già un racconto che assomiglia a quelli delle devastazioni, delle tessere, della borsa nera dei nostri genitori. Assolutamente. Cioè, il papà, il nonno, per fare la spesa, diciamo l'incipit lo faccia diverso, perché il nonno che è stato fino alle due di notte per cercare un buco è ambiguo, capito? Non si racconta ai bambini questo. Ecco, racconti però così, cioè, per fare la spesa pensa, alle due di notte dovevamo metterci in fila con l'app per trovare il posto al supermercato. Bambini che già vivranno in un mondo diversissimo dal nostro, iperconnesso. Certo, la spesa si farà con le stampanti, come sto vedendo una serie di fantascientifica che nel 2024 il cibo si farà con una stampante 3D che ti stampa l'hamburger, capito? E te lo prego, quindi non vedranno il problema, però sarà interessante saperlo. Elisabetta da Genova, vai. Allora, Elisabetta, la spesa la sono da fare da una sua amica che lavora da sempre e quindi non ha problemi, punto. Io sono abbastanza realista, sono quella che sarà comprata nel 2003 le mascherine per la SARS, per me stessa e per i miei collaboratori, mai usate. Prima che venisse diffuso l'obbligo delle mascherine, le ho regalate ai miei vicini di casa, che è gente che esce. Ok, quindi la cosa però tra le tante, poi io non mi annoio, stando in casa perché scrivo, faccio cose, scrivo testi, articoli, eccetera, ho dato una mano a scrivere un saluto di Pasqua ai Liguri, all'associazione Liguri nel Mondo, nelle quali faccio parte, apprezzatissimo. Ho coniato la parola tempo sospeso, che adesso è usata da tutti. Ecco, però la cosa che ricorderò sicura tra tutte è questa: le telefonate notturne di un mio amico, ottima persona, che vive più o meno a 60 km da Genova. Questo è uno stato d'ansia pazzesco, me ne accorgo. Quindi ricevo tutte le sere, a volte alle 2:30 di notte, telefonate lunghissime, mi parla di politica, stalker noiosissimo, cultura. Scusi, ma sai che noia, metta la telefonata nella blacklist, questo di notte al telefono? Però mi rendo conto che ha bisogno di essere ascoltato, è una persona... Ma tutti abbiamo bisogno di essere ascoltato, ma non possiamo imporre agli altri di ascoltarci. Guardi, è stata una persona veramente valida nel lavoro... Ma lei fa piacere questa telefonata notturna? Sì, a volte resisterei per dire, senti, parliamo di cose allegre, visto che io non so... Ha fatto telefonate depresse, non è che le parla, dice, guarda, sono qui col mio stello di Giada, no, niente, telefonate depressissime. Però io ho altri amici con le quali parliamo, per dire, mio amico, scrittore, che sta a Venezia, io tra l'altro parenti in Veneto, io sono mezza veneta, quindi... Sono mezza lingua. Vabbè, vedo che c'è una gran voglia di parlare, però la devo interrompere perché io devo dare la linea. Ci sentiamo tra un istante. Melog 800240024. Abbiamo tantissime persone che hanno voglia di raccontare e ci piace, stiamo cominciando a costruire il nostro archivio. Mi aspetto storie, per adesso stiamo lavorando sul contorno, pian piano ci stiamo arrivando, faremo altre puntate desiderio di dare una narrazione del nostro pubblico. Per adesso cominciamo a fare uno sforzo in più e chiedo agli ascoltatori in quest'ultima parte di trasmissione, entrate più in qualcosa che abbia la valenza veramente epica. La nostra epica individuale è un termine molto relativo, quello che per noi è importante per gli altri può essere indifferente, però difendete con orgoglio il vostro punto di vista. Valeria da Rimini, sei pronta? Sì, sono pronta. Allora, rispetto il dolore degli altri, e sono quasi dispiaciuta di essere passata alla fase 2, rimarrà un bellissimo ricordo per me le passeggiate che facevo grazie al mio cane, dove vedevo il colore del mare, del cielo, San Marino, le piante che crescono selvaggiamente, gli uccellini, insomma, che fanno le loro dinamiche, prima che arrivi di nuovo l'uomo che deturpa. L'unica esperienza umana che mi manca veramente è l'abbraccio silenzioso dei ballerini di tango, ballo il tango, sono argentina, e meno si parla meglio si fa, i colpi parlano e non mentono, nient'altro. Mi rendo conto che le dinamiche degli uccellini all'alba non sostituiscono l'abbraccio del cavaliere quando balla il tango, quindi questa, diciamo, è un'impressione forte che lascia un segno e fa capire. Marco da Monza, pronto? Vai. Pronto, buongiorno. Io la mia esperienza, la prima esperienza è stata con mia figlia di 10 anni che una sera alle 11:30, mezzanotte, arriva e mi dice: papà, io non riesco a dormire. Io gli chiedo perché. Perché ho paura di tutti questi persone cinesi che stanno morendo in Cina. Ho paura di questa pandemia che sta scoppiando. Faccia conto che questa cosa qua a me è successa a metà gennaio. Per me è stata la prima esperienza col Covid, è stata devastante. Quindi lei sta allevando una piccola Cassandra che ha già previsto quello che sarebbe accaduto in tempo non sospetto. Guardi, a detta posteriori dico di sì, perché noi ai tempi minimizzavamo, cioè sia io che mia moglie abbiamo minimizzato alla grande, dicendo: ma no, è lontana, vedrà che qua non arriverà, insomma la Cina è un paese molto grande, la vita è diversa, c'è tanta povertà. Alla fine è stata più devastante da noi che da loro. Cioè, sì, ecco, magari la bambina adesso gli faccia vedere dei cartoni animati, la distragga, le dica: se vedi altre cose non le raccontare, così ci fai vivere più tranquilli. Grazie. Vincenzo, provincia di Salerno. Vincenzo. Pronto? Ci sono. Sì, l'ascolto. Allora, racconto la mia storia. 30 secondi, vai. Allora, racconto la mia storia. Io sono un rappresentante e ad agosto dovevo sposarmi, forse a settembre, non si sa. In questi giorni l'incertezza del futuro è devastante. Se tutto va bene a settembre, altrimenti l'anno prossimo. E niente, non vedo e non do un bacio alla mia fidanzata dal vivo da 2 mesi ormai. Questo è di una tristezza incredibile. Ai miei figli un giorno racconterò che non è tutto così scontato, libertà e affetto. Mi faccio capire 2 cose. Perché non do un bacio alla fidanzata? Adesso è possibile, è un affetto stabile, se la deve sposare può darglielo, non lo so. Sì, questo sì, però ancora non abbiamo avuto modo di vederci in questi 2 giorni. Oddio, dovreste stare distanziati, spero che domani. Diciamo la verità, se uno dovesse essere ligio, vi potete vedere a 1,5 metri con le mascherine e con i guanti. Sì, è vero. Quindi il bacio, potete darvi un bacio se voi foste stati conviventi. Se per 2 mesi stavate insieme, facciate quello che volevate. Essendo stati distanti, starete comunque distanti, capito? E questo è il problema. Però so che non sarete ligi, quindi vi vedete. Ma perché non vi siete sposati? Chi ve lo impedisce di sposarvi? Perché non possiamo fare nulla, non possiamo fare feste, non possiamo fare cerimonie. Che botta di culo, dovete invitare persone, spendere soldi. Vi sposate in fretta e furia e agli altri dite: scusate parenti, ci siamo sposati. I regali ve li fanno lo stesso e non dovete fare il pranzo. Ah, vi piace a voi? In tempo di guerra sono sposati in condizioni miserie, mi hanno raccontato il papà e la mamma sono sposati, mi raccontano il papà e la mamma sono sposati, non c'era nessuno, vestiti come erano vestiti, sono andati a casa, hanno mangiato la pasta in bianco. Io sono cresciuto così, capito? Evidentemente lei vuol raccontare un matrimonio a tutti gli effetti. Baldassarre da Roma, vai, 30 secondi. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti e a tutti. Sono il professor Baltasar, detto Baldo, faccio il neurobioingegnere e l'insegnante. Mi sento un liberato, libertario e libertino. Ricorderò i miei studi per curare il Covid-19 con le onde elettromagnetiche. Ricorderò i desideri esauditi come la telescuola che aveva previsto Liliana e le telericette mediche. Grazie virus. Sono il compagno di banco del pilota comandante istruttore Ciro che ha regalato la testa per l'asta tosta. Baldassare, prego, sono ammirato. Sono ammirato, veramente è un caso da manuale. Se lei non fosse già una persona esperta nei meandri della psiche, direi si sottoponga a un esperto e capisca, faccia spiegare cosa è successo in lei in questo periodo o cosa già lei avesse per la testa. Quindi lei ha curato, ha trovato la cura con le onde elettromagnetiche, è stato libertino, ha declamato quelle che sono le sue doti, quindi che devo dire, va bene, avrà probabilmente anche altre cose da raccontare, ma ci vorrebbe una trasmissione dedicata a Baldassarre. Paolo da Bergamo. Buongiorno. Pronto, 30 secondi, vai. Allora, niente, per me quello che racconterò ai miei nipoti sarà una cosa devastante che mi è capitata, un'ansia incredibile, soprattutto di notte, dove mi svegliavo, ma qua dalla notte vedevo, sentivo le croce rosse, sapevo che un sacco di persone sarebbero state portate in un inferno dal quale non si poteva più tornare, senza gli aspetti. Io arrivo proprio nella zona più devastata di Bergamo e questa cosa mi sta emozionando anche adesso in un modo incredibile. È stato bruttissimo. Allora, Paolo ci dà il senso veramente di quello che è accaduto. Non voglio dire finalmente arrivata la telefonata perché sarebbe meschino, però Paolo ci dà l'idea di quello che è un racconto da raccontare ai nipoti. Le ambulanze la notte, e le ambulanze corrispondevano a persone malate, i morti che non sapeva dove metterli, le colonne di camion militari con i morti dentro. Questa è una parte di esperienza che rappresenta un unicum, qualcosa di diverso, di differente. Io mi sono letto in questi giorni le cronache della Spagnola, c'erano dei punti in cui non c'era più legno per fare le bare e i morti li bruciavano per strada, in zone civili, civilizzate, non in mezzo alla giungla. E quello era un segno di distinzione. E questo nessuno l'ha raccontato. Nessuno ci ha fatto un film, ci ha scritto un romanzo, ci ha composto una canzone. Perché? Perché si tende a rimuovere. Guardate, questa mattina abbiamo avuto racconti di idilliaci, di persone che facevano passeggiate, ascoltavano gli uccellini. Tutto sommato gli stava bene star dentro casa. Io stesso mi reputo un fortunato. Io ho toccato il culmine delle mie aspirazioni, non vedere nessuno, starmene chiuso nel mio antro con le mie macchine, i miei strumenti, le mie tecnologie, i miei pensieri, la mia beata solitudine. Beh, però invece è stato anche questo. Giovanna da Massa. Pronta? Buongiorno. Pronto? Vai. Buongiorno. Vai subito, vai subito. Vado subito. Dopo 10 anni in Asia siamo arrivati in Italia, dalla Cina e dalla Corea, io, 2 figlie e un marito, a 10 giorni dall'inizio della pandemia in Italia. E ci siamo trovati chiusi in casa con i miei genitori in 6, dopo che non eravamo mai stati tutti insieme. È un ricordo di convivenza che e di sopravvivenza alla fine, perché non, pur non conoscendoci di fatto siamo riusciti a cavarcela noi lontani da quella che era la nostra casa. Un racconto lontano, devo dire che ancora ho l'impressione che per molti sia stata una felice parentesi di affrancamento dagli obblighi quotidiani. E questo probabilmente sia un'impressione generale, sono anche contento, non mi piace pensare che le persone abbiano sofferto. Tiziana da Torino, pronta, vai. 67 anni, come lei ho assistito ai racconti di guerra dei miei genitori, sono passato attraverso il 68 e gli anni di piombo, ma l'esperienza della deprivazione della libertà, anche se a fini assolutamente di bene, non l'avevo mai fatta. E mi ha fatto pensare a che cosa potevano aver vissuto i nostri genitori durante la dittatura. Quindi io racconterò questa sensazione sgradevolissima, anche se, come dico, in questa situazione a fin di bene, ma molto brutta. Non sarei moltissimo d'accordo. Durante una dittatura, un regime dispotico e assoluto, la privazione di libertà avviene in maniera limacciosa, infame. Puoi uscire di strada, ma se osservato, sorvegliato, i tuoi comportamenti possono portarti all'eliminazione, alla prigionia, alla discriminazione. Qua semplicemente bisognava stare a casa per salvarsi la vita e salvare quella degli altri. Non c'era un cattivo che ci diceva state a casa, non c'era alternativa. Alla dittatura c'è l'alternativa, che è un governo che dà libertà ai suoi cittadini. Durante il Covid non è che ci fosse molta alternativa, al di là poi delle fantasie e delle approssimazioni da leoni di tastiera. Comunque ognuno ha il suo punto di vista. E Gino da Roma. Buongiorno. Vai Gino. Allora, io faccio il volontario Caritas da parecchi anni e in questo periodo sono stato molto impegnato perché vado tutti i giorni ancora a ritirare la spesa sospesa dei supermercati. Poi ho un po' unito l'utile al dilettevole perché ho girato per questa Roma deserta, bellissima. però la bella sensazione è occuparsi un po', sì, di cose concrete, gravi, dolorose, e di non dover pensare sempre a se stessi. Ecco, questa è la sensazione più bella. Vedo che alla fine abbiamo raccolto un campionario di quello che è stato, e mi rendo conto, e questa è la mia conclusione, che è imparagonabile quella che è stata l'esperienza dei nostri genitori al momento e dei nostri nonni rispetto a quello che noi abbiamo vissuto mediamente a livello nazionale in questo Covid-19. Esperienza forte, esperienza tragica, esperienza cruenta per molti, ma generalmente rimarrà soltanto l'impressione che per 2 mesi siamo stati chiusi dentro casa e ci mancava qualcosa, che appena lo riacquistiamo già entreranno questi 2 mesi nel regno del nostro più profondo oblio. Alla prossima.